L'amore è una cosa meravigliosa, parte terza, crisi. Capitolo 1. I tamburi. Piedi, polvere, polvere, piedi, piedi, bandiere, urla e tante bandiere. I draghi, i petardi, gli stendardi e le bandiere. E la gente. La gente e i soldati, tanta gente. Fucili e sandali. Paglia che marcia nella polvere, i soldati e le bandiere. Azzurro cielo invernale riempito di sole sulla Cina. Non ci conosciamo più. Questa non è la nostra gente, questa trasfigurazione. Fuori città, i campi, verde giada e il giovane riso, azzurro cupole e colline, la folla sui sentieri come fiumi, porta i suoi bambini, cielo, sole, terra bruna. E volti, sandali di paglia nella polvere. Eccoli, arrivano. 5 stelle hanno le bandiere che sventolano al sole. Finalmente, finalmente! I soldati, il popolo non ha paura. Perché dovremmo aver paura? Questo è l'esercito del popolo, questo è il nostro popolo. I discorsi, le grida, l'estasi di gridare. 10.000 gridano all'unisono, ancora, ancora, ancora, clamore nel sole. I bambini marciano, le donne marciano, studenti, marinai, soldati, mercanti, artigiani, sarti. Tutti marciano con stendardi, gridando sotto le stelle, i tamburi, i tamburi, i tamburi, bubom, bubom, bubom, bubom. I tamburi della danza, lo yanko, lo yanko, lo yanko. Danza del passato, oltre il presente e il futuro, la danza, tra i soldati e il popolo, i danzatori, danzatori rossi e oro e i tamburi. Uomini battono i piedi, urlano la loro esultanza, la danza, donne e uomini estatici e senza paura, i tamburi. Bambini ridono al sole. Fede, danzando lo Yankho, speranza, danzando, resurrezione, grida. Batti i tamburi, battili, danza, o popolo. Perché è giunta l'ora? È qui, vero? I tamburi, i tamburi, i tamburi, bubom, bubom, bubom. I discorsi, i discorsi. I discorsi, parole, parole, parole, parole, clamore di parole nel sole. Vi sono 475 milioni di abitanti nel nostro paese. Il nostro paese ha più abitanti di ogni altro al mondo. Il nostro paese sarà il più potente del mondo. Il nostro paese salverà il mondo. Possiamo battere chiunque. Abbiamo tanta gente. Tremate. Questo è il futuro, sandali di paglia che marciano nella polvere. Tremate, la nostra marcia scuote la terra. I nostri soldati, il nostro popolo, gli stendardi e le bandiere. Il popolo, il nostro popolo. Tanta gente. Portano i bambini, tanti bambini, tanti. La prima e l'ultima cosa che udii furono i tamburi. La loro infinita, instancabile insistenza avvolgeva la città e le distese del giovane riso verde fra le colline azzurre, fra il ravizzone dorato e il pisello rosa in fiore. Più che un suono, era un perpetuo tremolio, un brivido dell'aria, frecce di sole sul mare, raggi di luce sull'eterno fluire delle onde. Era un'armonia sentita più col corpo che con gli orecchi, che ci trasportava in un sogno più vivo di qualsiasi risveglio. Avanti e indietro andavano i miei pensieri, appena abbozzati, avanti e indietro, sulle ali del suono, su di un ritmo interiore. Pulsazione di 5 battute, vibrazione che turbinava senza posa verso le colline e verso il cielo che le ammantava, fino a che l'intero mondo sorgeva tremulo e vivo, vivo. Vivo come un corpo innamorato. Le nostre parole, i nostri gesti non erano che sensuali percezioni comandate da quel pulsare che ci incantava, facendoci palpitare di vita. Bubom, bubom, bubom. Nell'oscurità Mi svegliavo perché i tamburi si erano taciuti. Il silenzio ci destava tutte all'ostello delle giovani donne cristiane, distese sui lettini di ferro, dormienti, troppo bruscamente private del sonno, giacevamo, immobili, trattenendo il respiro, per timore di svegliare le altre, d'altronde già sveglie. Un brusco silenzio spezzava la dolce insistenza, disperdendo l'atmosfera che ci teneva vicine. Coscienti del nostro isolamento, bruscamente abbandonate e reiette, ci svegliavamo. Poi i tamburi riprendevano a rullare e cullate dalla loro ninna nanna, nuovamente riunite nello stesso incantesimo, chiudevamo gli occhi e ritrovavamo il sonno, sentendoci protette dalla nostra piccola solitudine individuale. Parate e cortei, riunioni, discorsi e slogan, cortei alla luce del sole e alla luce delle torce, massaie con bandiere recanti la scritta libertà e uguaglianza per le donne, associazioni cristiane giovanili, la vera religione libera dal giogo imperialista, giovani comunisti, morti ai nemici della nuova dittatura democratica, morte ai sabotatori, alle spie e ai leccapiedi dell'imperialismo e ai reazionari. Cortei di artigiani e di meccanici, di associazioni cristiane e di mercanti, di contadini e di operai, con stendardi, draghi, fuochi artificiali, bandiere, discorsi e slogan. C'era il cuore di ognuno in quell'enorme amplificazione dell'individuo che si chiama folla. Il popolo ero io e io ero il popolo. Che cos'è l'amore di un solo uomo a confronto di questa immensa esaltazione, di questo divenire una moltitudine? Il mio nome è legione, estasi, incanto della moltitudine, un mantello di felicità lasciato cadere dal cielo, marce, grida, danze, discorsi, agitarsi di stendardi e canti, un'intera nazione canta. Il mio corpo parve abbandonarmi, addormentarsi, completamente presa dalla passione generale, l'amore individuale si rimpicciolì in me. E ogni dolcezza abbandonò il nome adorato. Altre delizie, altri brividi e l'ebbrezza di rinunciare all'analisi individuale, al distacco pericoloso e incerto, la ribelle personalità ridotta a un querulo pigmeo insignificante e facilmente messo a tacere. Estasi. Le danze, lo yankò sinuoso e ondeggiante, un fiume di popolo che ritmicamente calpesta la terra con la forza dell'umana volontà. Così, mesi addietro, avevo visto il grande fiume serpeggiare dentro e fuori le scure e impassibili colline della Cina occidentale. Così vedevo, ora, i danzatori in rosso e oro con le lunghe sciarpe azzurre, scarlatte e oro, serpeggiare senza posa fra la gente, calpestando la terra al rullio dei tamburi, l'estasi di un fiume. 3 mesi dopo la liberazione della città, i tamburi rullavano ancora, a volte dai cortili del collegio tecnico, a volte dalla scuola missionaria alla porta orientale, spesso dall'accampamento dei soldati fuori dalle mura meridionali. Quando partii, rullavano ancora, e ancora oggi rullano, allorché per le strade gli autocarri aperti avanzano lentamente per portare i nemici del popolo a una morte violenta. Mentre le folle fischiano e urlano e tuonano odio e plauso, e gli attivisti alzano le loro voci acute nella frenesia degli slogan e si sparano petardi come per una festa, e i danzatori danzano, danzano, danzano. Sai, Sen, a volte mi chiedo se Confucio abbia udito questa armonia di 5 battute e l'abbia giudicata adatta a regolare le emozioni dell'umanità. Chissà se 800 anni prima della nascita del Cristo, mite ebreo, i nostri antenati celebravano la loro festa di primavera e i loro riti della fertilità con questa danza e questo rullio. Questo incantesimo di tamburo e di corpo viene dal profondo del nostro popolo. Io me lo sento scaturire dal ventre, sede di tutte le vere emozioni. È forte, è imperioso, come l'amore. E nel midollo delle mie ossa mi sembra di averlo udito milioni e milioni di giorni prima di oggi. Tu ritorni sempre al feudalesimo e alle concezioni borghesi, Han. Quando la smetterai di ricamare la solida realtà con sogni fantastici? Questa è l'espressione democratica della felicità della nostra nazione liberata dall'oppressione imperialista e dalla tirannia di funzionari corrotti. È il canto del nuovo grande mondo, della dittatura democratica del popolo. Ma per me era un ritmo vecchio quanto la terra che ci circondava. Come può una cornice di parole alterare la natura essenziale dell'uomo e spogliarlo del suo inconscio e inalterabile passato? Ciò che è stato è parte del nostro corpo, tenace come la vischiosità protozoica delle nostre cellule, e quello che noi siamo, e cioè corpo, è implacabile nelle sue leggi. Povera nostra anima illusa e impastoiata dalla materia, che con arrogante follia esige la supremazia, reclama il trionfo sul dolce corpo spietato. Nel sacrificio, nella ripulsa, nella ribellione, essa obbedisce alle leggi e all'infinita mutevolezza del corpo, nella salute e nella malattia, nella fame che inghiotte il pensiero, nel terrore che spinge alla crudeltà. Quanta nostra benevolenza è dovuta a un buon pasto e quanto potere di farci apprezzare la bellezza del mondo a una buona digestione. Bisogna dunque essere umili della sola umiltà esistente, cioè vivendo col proprio corpo, conoscendo a fondo i suoi cicli, i suoi tradimenti, i suoi desideri e la sua decadenza. Difficile accettare l'insignificanza della nostra mortalità. È necessario cullare l'illusione come facente parte della sostanza della realtà, decidere di sognare fortemente e sempre, consapevoli che gli splendidi sogni fanno parte di questo nostro corpo, veri quanto la solida realtà che si stringe in pugno. È forse grazie a questa consapevolezza che credo di vedere in gran parte di quello che viene proclamato come nuova rivelazione e verità redentrice, nient'altro che formule ripulite per quegli stessi desideri e istinti atavici che fin dall'origine della specie sono stati nostri, in tutta la loro brutalità. Bisogno, terrore, fame, crudeltà, sete di potere e quell'avidità di avere qualcosa di più del solo pane che spinge l'uomo alla santità o all'abbrutimento. Povero uomo, triste, compromesso tra il fiore e il concime, intervallo tra la nascita e la morte, miscuglio di percezione e di sonno. L'uomo vuole l'eternità e la perpetuazione nel tempo e nello spazio. Crea invincibili immagini di se stesso da adorare e dimentica di essere animale da preda e spirito angelico accoppiati in eterna caducità. Tali istinti e desideri, dei familiari e ancestrali dell'uomo, gli urgono dentro, glorificati e adornati di parole. Il viso rinnovato di tanto in tanto da una mano di vernice. Sen, non illuderti con visioni di un paradiso scientifico sulla Terra, immacolato come il tuo laboratorio. La perfezione è un ideale pericoloso. Per la prima volta da 5 secoli abbiamo un governo che si prenderà cura del suo popolo. Avremo onestà, duro lavoro e un'amministrazione efficiente e non corrotta, ma facilmente tenderemo ad andare oltre le nostre possibilità. La violenza dell'emozione mi spaventa, poiché le emozioni sono più antiche delle parole che le destano, incontrollabili. In questa nostra sola verità potremmo diventare troppo fanatici. Ho paura. Come puoi aver paura di tanto bene? Guarda il nostro popolo in piedi nell'affermazione della sua dignità umana. È gente nuova. Un tempo reietta, sottomessa, rassegnata, nata per faticare a testa china. Il suo volto non è più insignificante quanto i ciottoli e l'erba sul ciglio della strada, bensì vivo, portato alla vita, non da un dio, ma dall'uomo stesso. Guarda il lavoro che abbiamo già fatto, abolendo la corruzione e l'ingiustizia, costruendo nuove strade, dividendo equamente la terra. E se siamo poveri è perché non dipendiamo più dal denaro straniero. Abbiamo cibo sufficiente per vivere. La moneta è stabile, nuove industrie sorgono ovunque. Guarda, guarda quanto abbiamo compiuto in così poco tempo. Non è forse la dimostrazione della superiorità dei comunisti in tutto il mondo sulla borghesia? Non so, quando mi sento uno dei molti che lavorano in questo risorgere di onestà, di entusiasmo e di fede, sono felice. Molti di noi sono più grandi di quanto non fossero prima, perché ora hanno uno scopo nella vita. Ognuno di noi è consacrato alla ricostruzione della Cina, ma tuttavia a volte ho paura. Paura. Paura di questa persistente e perniciosa ossessione dell'uomo all'esaltazione del sacrificio. Sacrificio della carne e del sangue, della gioia, del cuore, del mistero e del piacere del corpo, all'avida fiamma amorale di una tirannia spirituale. Un tempo era un dio tonante fra le nuvole, oggi sono stati che urlano attraverso i microfoni, ma sempre è la bramosia di diventare più grandi, dedicandosi alla divinità esigente, terribile nella sua collera e sempre inappagata. Emozione religiosa, fede nell'uomo, intollerante e fanatica come tutte le nuove fedi, venuta a gestire il povero, a nutrire l'affamato, a rendere giustizia agli oppressi. Con i suoi zelanti, i suoi soldati, i suoi santi, venuta a ridestare le cose più belle dell'anima umana, ardore, desiderio di purezza, unità di intento e abnegazione, ma anche a creare frenesie di odio verso i non conformisti, a denunciare e a sospettare eresie ovunque, a imporre il terrore nel nome della giustizia e a dimenticare la misericordia, inesorabilmente spinta dalle sue incontrollabili emozioni, fino alla purificazione con la morte, alle esecuzioni pubbliche, alla fantastica guerra santa, non facendo nulla di più di quanto altre rivoluzioni e religioni hanno fatto su scala maggiore e minore, la nuova fede avrebbe irrevocabilmente seguito il loro stesso corso, perché sempre l'uomo anela alla conquista del mondo, a imporre la sua volontà nel nome del suo Dio, con bandiere e grida, con legioni e croci, con aquile e con soli, con slogan e con sangue, piedi nella polvere, testa fra le stelle, antichi dei con una nuova mano di vernice, ancor fresca sul volto. Capitolo 2. La piccola città. Passando dall'antica confusione alla nuova disciplina, nacque in me la consapevolezza di molte cose del vecchio mondo che facevano sembrare l'inevitabile avvento del nuovo mondo. Questi due antagonisti, apparentemente in inesorabile opposizione, non mi appaiono oggi come antitesi, bensì come complementi uno dell'altro, aspetti gemelli degli stessi bisogni, desideri, crudeltà e aspirazioni dell'umanità. Essi si influenzano continuamente a vicenda, inseparabili quanto il giorno e la notte, sorretti da slogan e ritornelli ugualmente assurdi, rafforzati da teorie economiche basate sullo scioppio e l'inefficacia da una parte, sulla fede in un impalpabile e irraggiungibile continente di tempo chiamato futuro dall'altra. Che avrebbe potuto fare il comunismo senza un nemico? E che cosa avrebbe potuto spronare le democrazie a ripulire le sue case, se non il pericolo di perderle? In Cina il passato tentacolare corrompeva il presente. I vizi, le negligenze, le omissioni e le ingiustizie del mondo che viene chiamato libero si prendevano una terribile vendetta in un mondo in cui la parola libertà aveva un significato completamente diverso. Ad ogni passo si invocava un'antica iniquità per giustificare una nuova violenza che doveva bandirla dalla faccia della terra. E come il passato contaminava il presente, così il presente veniva sacrificato al futuro. E il futuro era un mostruoso inganno che aveva conquistato la ragione dell'uomo. Fu forse proprio nella piccola città che cominciai a capire il significato della libertà, ora che la disciplina doveva forgiare ogni pensiero, uomini e donne trovavano nel loro intimo riserve di tenera forza e di comprensione, di carità, pazienza e coraggio, quella chiarezza e quella costanza che preservano la libertà dello spirito umano. La libertà nasce nella schiavitù. Di una cosa ero certa: che comunque la pensassimo non potevamo più tornare indietro. Quello era il presente, il momento attuale, e il futuro, nonostante tutte le predizioni, tutte le minacce e tutti i progetti, rimaneva del tutto sconosciuto. Sen, tutto è rimasto lo stesso, eppure tutto è completamente diverso. È come mettersi davanti a uno specchio scrutandosi attentamente per la prima volta, la sinistra e la destra. e la destra la sinistra. Devi imparare a vedere le cose diversamente, Suyen. È facile quando impari a vedere giusto. Ora sei ostacolata dalla tua interpretazione feudale e reazionaria dei fatti, un'interpretazione sbagliata. Era vero. Ci sono tanti modi di vedere una stessa cosa. Per alcuni è bella e per altri è addirittura indecente. Ne avevo fatto l'esperienza con Mark, ma Sen disse: esiste un solo modo esatto di vedere, tu devi impararlo. Passeggiavamo lungo la via principale. Fra i resti del corteo del giorno prima erano sparse chiazze di brina lucente e zuccherina, che rapidamente scomparivano al sole caldo, riversantesi sui tetti grigi, sui salici e sui mucchi di escrementi dell'altezza di un uomo che segnavano l'imbocco delle fogne. Da quando la piccola città possedeva un impianto di fognature, era la prima volta che venivano pulite. Non certo dai coolies, bensì dai figli e dalle figlie dei cittadini, studenti del collegio tecnico, della scuola superiore e delle scuole medie. Avevano lavorato per 6 settimane, ma ora le fognature erano pulite. I membri del gruppo giovanile comunista giravano fra gli studenti per incoraggiarli. Il vostro lavoro non deve essere dovuto a un momento di entusiasmo, non è una cosa di poche ore, di pochi giorni. A differenza dell'antico regime, noi facciamo sul serio. Ai vecchi tempi si varavano splendidi progetti per cui occorrevano migliaia di dollari americani, ma poi il denaro finiva nelle tasche dei funzionari e non se ne faceva nulla. Anni fa gli studenti di questa piccola città iniziarono la costruzione di una strada, ma se ne stancarono ben presto e si dovette ingaggiare un gruppo di coolies per finire il lavoro. Ora abbiamo un programma e lo svolgeremo fino in fondo. Disciplinatamente inquadrati, con vanghe e picconi sulle spalle, gli studenti si recavano al mattino alle fognature cantando le nuove canzoni. Qua e là i cittadini indugiavano a guardarli, scettici e stupiti, donne coi bimbi attaccati al petto ignudo, bottegai che battevano le loro lunghe pipe di bambù contro lo spigolo di pietra della casa, il capo coperto da rotonde papaline nere per proteggersi dal sole. A volte un miau scendeva dalle colline, con collane d'argento e fibbie di rame e di turchesi, e si vedeva anche qualche tibetano vestito di pelle di capra. Le parate, i cortei e le riunioni continuavano, ma ora i tamburi ritmavano il lavoro e non gli svaghi. Abbiamo avuto la nostra vacanza, abbiamo esultato, ora lavoriamo, fedeli al nostro programma. Il fiume doveva essere dragato, i campi prosciugati, le dighe riparate. Bisognava piantare alberi sui pendii nudi delle colline. Era il fiume del popolo, erano i suoi campi e le sue colline, ma non c'era spirito pubblico nella piccola città. Per secoli nessuno aveva lavorato al di fuori del clan familiare. Per secoli il lavoro manuale era stato considerato degradante. Per secoli il popolo aveva giudicato qualsiasi governo come un oppressore e tutti i suoi doveri verso di esso alla stregua di lavori forzati. I quadri dei giovani erano ammirevoli, ora per ora. Giorno per giorno, settimana per settimana, percorrevano il paese, spiegando sempre, parlando pazientemente ai contadini, dall'espressione chiusa e testarda che cercavano soltanto di dare il meno possibile, ansiosi di accumulare riso, sospettosi di tutto, troppe volte traditi per non essere increduli. Con infinita pazienza, i giovani comunisti insegnavano e predicavano. Ed era commovente osservare il lento illuminarsi dei volti, udire le prime parole su quelle labbra rimaste per tanto tempo ostinatamente chiuse, seguire la metamorfosi dell'uomo finalmente conscio della propria dignità sulla terra. Questo miracolo valeva qualunque sacrificio. Il vederlo compiersi anche una sola volta era sufficiente per credere. Dopo il primo momento di entusiasmo, anche in città tornava ad affiorare il sospetto e la diffidenza. Non c'erano che due modi per far lavorare la popolazione: quello di portarla a una frenesia di entusiasmo con parate, discorsi e riunioni, dove tutti erano costretti a parlare, e quello di tassare e multare le famiglie facoltose fino ad obbligarle a lavorare insieme con i loro numerosi dipendenti. Era il gruppo giovanile che organizzava parate notturne alla luce delle torce, con le splendide bandiere stellate fiammeggianti alla brezza notturna, l'urlo esultante della moltitudine e i visi bruni trasfigurati, estatici, giubilanti al lume delle fiaccole. I cinesi sono una razza emotiva e le canzoni, i discorsi e i tamburi portavano a manifestazioni di fervore isterico, di desiderio di sacrificio e di totale dedizione. E così, nel momento dell'esaltazione, le moltitudini si spingevano avanti, offrendosi volontariamente di dragare il fiume, di ricostruire le dighe, di rimboscare le colline. Ma il mattino seguente, fredde e non più in preda all'ebbrezza, non mantenevano le promesse della sera prima. Le abitudini di un'intera vita sono dure a morire. I quadri della gioventù mandavano a volte un loro membro, maschio o femmina, alle case dei renitenti. Il giovane comunista vi rimaneva per ore e ore, sempre cortese, intollerabilmente paziente, ineffabilmente fermo, parlando, convincendo, predicando, insegnando, discutendo, interrogando sui motivi e le intenzioni, facendo appello all'altruismo, esaltando l'amor patrio e la necessità del sacrificio. A differenza di ogni altro essere umano, i giovani comunisti non avevano bisogno di cibo, di acqua, di sonno. Dopo un giorno, 2 giorni, 3 giorni a contatto di questi giovani fatti d'acciaio e di fuoco, i più prepotenti e burbanzosi mercanti, i più astuti e sagaci accaparratori cedevano, scoppiavano in lacrime battendosi il petto, si aggregavano a un gruppo di lavoratori e sborsavano denaro. Nulla può resistere a una profonda convinzione, se non una convinzione altrettanto profonda. Per il comunista, ogni individuo costituiva una fortezza che poteva venire conquistata soltanto mediante una lotta spirituale, e il fatto che tale lotta richiedesse notti insonni e sforzo fisico non faceva che comprovarne maggiormente la superiorità spirituale. I comunisti si dedicavano alla conquista delle anime, i corpi sarebbero venuti in seguito. Per i proprietari terrieri, assenteisti, per i ricchi oziosi, per i signori della guerra in ritiro, c'erano le multe, l'obbligo di acquistare obbligazioni nazionali di guerra e tasse a non finire finché la famiglia non aveva più nulla da vendere per le strade. Al più ricco e più feroce ex signore della guerra della cittadina era stato imposto di pagare le spese per una nuova strada alla città vicina. È il tuo contributo alla patria dei tuoi antenati. Tu pagherai. I membri del gruppo giovanile, che negli ultimi 2 anni avevano lavorato in segreto nella piccola città, erano ora usciti all'aperto per organizzare e guidare i cittadini. Avevano visto arrestare molti dei loro camerati, li avevano visti torturare e uccidere dal Kuomintang durante i terribili rastrellamenti notturni effettuati in tutte le università del paese. Erano combattenti veterani e vivevano ormai soltanto per la causa e per il partito, scevri da ogni debolezza umana, di una purezza cristallina, profondamente sinceri e talvolta molto ingenui. Erano rispettati da tutti e molti venivano influenzati dal loro esempio, dalla loro passione per il lavoro, dalla loro onestà e dal loro altruismo. Due di questi giovani erano seriamente ammalati di tubercolosi, ma ciò non impediva loro di lavorare 16 ore al giorno. Parlando, si coprivano la bocca con la mano per non infettare gli altri. Ormai morti. La vita non conta. Moriamo con gioia perché abbiamo visto il trionfo della rivoluzione. Morire per il proprio paese e per la causa è la cosa più meravigliosa del mondo. Martiri e santi del regno dell'uomo hanno avuto la loro ricompensa. Uno di loro, commissario politico della cittadina, tenne un discorso nella grande sala del collegio tecnico, coi suoi banchi di legno, il pavimento di cemento e la piattaforma a un'estremità, con tavolino, sedia e un bicchiere di tè pallido come acqua. La sala aveva quell'aria di innocenza ammuffita, di lieve decadenza propria a molte sale pubbliche inglesi. Il giovane commissario, che aveva sulle spalle 10 anni di guerra civile ed era stato torturato 2 volte, parlò del grande fratello Gesù Cristo. Gesù era buono, amava i poveri, dava cibo agli affamati e morì per la sua fede. Dobbiamo amarci l'un l'altro come seppe amare Gesù. Egli fu un buon comunista. Parecchie settimane dopo, nella stessa sala, un ex cristiano, ora comunista, uno di quegli opportunisti dalla parola facile, strappò in 2 pezzi un'immagine di Gesù, urlando che la religione era portatrice di aggressioni culturali e accusandola di essere l'oppio del popolo. Fu arrestato il giorno seguente come controrivoluzionario. Dal cristianesimo, religione rivoluzionaria, Spumeggia sempre il fermento della coscienza sociale, risuona in eterno il terribile grido guai ai ricchi, guai agli ipocriti.